Qui ne già è in quello 70 dovrebbe essere, no? 57-58 anni dovrebbe avere più o meno. E già di pezza robusta, non preoccuparti. Se dava 5-6 buste te le portava come niente, te le portava a casa. Sono forte fisicamente, solo e quello è il problema. Lo so, di fisico era molto forte perché quando facevo la spesa l'ho visto parecchie volte, era pieno di buste. Io non ci riuscivo a portare, ma quello era una cosa impressionante. Chissà perché, che cosa gli è successo, ho avuto che... Perché è nato così, eh? Lo so, deve essere che ha sbagliato il padre, con la madre, cosa ne so. È nascito così, purtroppo. A volte capitano le sbagliate, purtroppo non ci possiamo fare nulla. Quella è un cuginetica quando succede, perché il padre non è così. Io lo so, il padre era tranquillo. Si chiamava Sventullo. Padre tranquillo, una persona che io sento lì per farmi fare delle soglie qua, nel 78, mi ha trattato bene anche. Era in gamba il padre, già l'ho conosciuto anche io. Si chiamava Ventullo il padre, la madre era una cosa impressionante, mamma mia, quando gridava, fatto un figlio. Vabbè, sempre voi ci stava quella donna. E non Paolo, ti ruggio. Mamma! E tu ti conosco! Ti chiamava sempre con me, o con Stefano, o con Tonino, o con Piero, sempre con la stessa persona ce l'aveva. Mamma mia, cosa faceva? Ti faceva sbagliare. Dice, sensazione! Una sagoma era, raga. Simpatico, però era esagerato, qualche volta non si rendeva conto perché il suo problema non riusciva a contenersi, allora era proprio la malattia. E infatti, purtroppo la malattia che ci aveva, bisognava dire sta bene con quello che guadagna di pensione, sia la pensione sia quello che gli tocca. Anzi, che gli è toccato, quando è messo la moto alla madre del padre, penso che sia stato, che sia pagato di qualche cosa, se non è impossibile che viva così. Bisogna vedere se lui è in grado di gestire quell'operazione, o se ci sarà qualche suo concubino che si è trattato di sopravvento. Ma penso che sia tutto la sorella di Beni, o che sia per la famiglia sua, o un fratello. Non penso che lo lasciano così, no, solo lui si è pagato tutti i soldi. Quindi ci sarà tuttora e gli sarà data con quello che gli spetta in seguito. E quindi mi dici che sta prendendo una buona pensione? Beh, lui c'è l'accompagnamento, ma io penso 800-900 euro di pensione se la prenda lui. Porca miseria, un accompagnamento anche prende, perché l'accompagnamento si parla quando uno non è in grado di essere gestito per quanto riguarda fisicamente a muoversi, ma lui era agile, nel senso che si muoveva autonomamente, non era la persona di volontà così, la davano proprio a chi non fa. Io penso che ci abbia 800 euro di pensione su di prendere la porta, lui. Anche perché da solo non puoi lasciarlo, e se no guai. Sì, questo sì, va gestito l'uomo, perché è chiaro che potendo combinare arti impuri, non si dice. No, ma credo che avrà magari prenderà una pensione di validità civile, come proprio come malattia particolare, però che gli diano l'accompagnamento non ne sono molto convinto, Antonio, perché intanto l'accompagnamento lo stanno prendendo quasi a tutti adesso, anche ai più che sembrano, addirittura prendono l'accompagnamento a uno che era completamente cieco. Sì, è vero che hanno trovato quella donna in bicicletta, era cieca e stavano prendendo la pensione dal 1995 e quella adesso la sgamberano di brutto, addirittura aveva un servizio di parrucchiere eccetera eccetera. Sì, ma è vero anche che uno se è cieco è cieco. Infatti, quello sì. Ma quella se ne so più restituire i soldi indietro, già ricorda, già con gli interessi, E quella è messa molto male, i fatti rivali, il casino. Poi quando arriverà la pensione non gli danno più per tuffa, perché non gli danno più, sta tranquillo. ma vai una che così va a fare la parrucchiera, cioè perlomeno avrebbe dovuto almeno riguardarsi da uscire e così alla quaderose, farsi vedere in giro, camminare addirittura in bicicletta, cieca, cavolo, ma non lo sai che ti controllano, la finanza ha fatto o meno che mi abbia avuto una soffiata, ma qualche cosa del genere, però stanno facendo dei controlli accuratissimi a tutta questa gente, e almeno stai più attenta. Ah beh, quello sì. Ha passato tutto il tappeto dove sono tutti. Anche la persona di Gabella voglia la macchina di Gabella gli hanno subito, perché ci sono quei medici che vogliono capito deve mollare la donna. Quando molla gli hanno subito tutto. Il discorso è quello. Lo so, glielo danno, però oggi anche i medici sono ristretti, non è più come prima, che questi sono controllati, all'inizio ad esempio c'erano i medici con le pensioni facili, questi li hanno eliminati e hanno sostituito tutto il personale che era addetto a queste pensioni facili, alcuni sono andati in pensione, vabbè, i nuovi arrivati sono stati sottoposti a dei controlli, anche essi, affinché non diano pensioni facili a chi non ne merita, giustamente, perché questo si sta verificando. Sì, è una legge, questa legge l'ha cacciata fuori Berlusconi, io non mi sono molto d'accordo, perché c'è gente che ad esempio di invalidità ne ha veramente e gli hanno ridotto la pensione da una certa validità a ridotta a meno. Però in effetti uno se ha una gamba è tutta mezzo male, messa male, non può andare a lavorare, a fare lavoro. Invece l'hanno riabilitato al lavoro, ma al lavoro sì, quello però non rende la metà. E al datore di lavoro, quando lui fa il lavoro che deve fare, si riduce a sviluppare il lavoro che deve fare. Però che tocca soffrire il datore di lavoro, non quello, perché quello più di quello non fa. Beh, è così. Purtroppo è così, vabbè adesso non parlo più nessuno, nessuno ma con i validi, figurati, perché c'è una crisi da colpare a tutti. Adesso ti buttano fuori, torna. Quindi, stiamo andando bene già. Sai cosa avrei voluto fare io, Antonio? Ti ricordi quelle pensioni facili che hanno fatto nel 90, questi sono i vecchi però amministratori dello Stato, non questa amministrazione adesso ma quella di allora, hanno mandato a casa i ferrovieri, i poliziotti, i carabinieri, tutti con le pensioni baby, se avevano inventato D'Alema, Craxi e tutta quella gente lì, e hanno praticamente mandato a casa tutta la gente che aveva compiuto i 20 anni di come si chiama, e prendono pensioni da nababbi, questi qua, o con causa di servizio, con tutte, ecco, tutta questa gente qui, sai cosa avrei fatto? L'avrei richiamata di nuovo a lavorare altri 10 anni, come Berlusconi si è inventato che si campa di più oggi, ecco, allora chi di più campi, allora chiamali di nuovo questi, e così recuperano questi 20 anni che si hanno grattato i coglioni tutto il giorno. Ma non lo fa, purtroppo non lo fa, già lo sai. E avete il casino che c'è, o io agli altri, ci sono questi, questo casino per le banche, c'è, ormai la gente si è rotta le palle, quindi tutto di tutti. Non ci sono più partiti, troppo te lo dico io, perché a un anno ce ne mandano, tutti a calcio in culo ce ne mandano. Quella roba là ci vuole, quell'arnese che tu sai, eliminarli completamente e ripartire da zero. Ma l'asino ci vuole, a uno è messa dietro. Sono una massa di gentaglia tutti quanti, una volta che mettono piede in quelle poltrone non si alzano più, perché troppo comodo è averla la quota mensile di 400.000 euro all'anno e prendono questi disgraziati alla faccia tua. Lo so, purtroppo ce ne abbiamo messi noi su, la colpa è nostra. Sì, ma se tu quando vai a votare non voti, rimangono sempre loro, quindi non serve a niente. Se vai a votare voti un altro, l'altro fa quello che sta facendo questo, quindi siamo punti a capo. Invece, se c'è una bella rivoluzione, come è successo in Francia, e li sradichi tutti quanti e parti da zero, i ladri vengono messi, selezionati capito, nel senso che tu vuoi fare questo lavoro, ecco, lo stipendio non è più di quello là, ma è di questo, uno stipendio normale come un operaio, ti interessa fare il politico? Ecco, pagati come gli operai, mi dimmi un po' se c'è questa corsa alla poltrona. Ma tranquillo che non c'è più cosa così alla poltrona. E allora vedi che Dio Benito ci voleva. E ci voleva, sì. Per dedicare tutta questa gentaglia. E poi loro salutano tra di loro, litigano, mi fanno tutti i colori, e però sono sempre loro lì che prendono sempre questi soldi e noi dobbiamo stare a pagare gli stipendi a loro. Se li eliminassero parecchi parlamentari, cosa ce ne facciamo noi? Di 1000 parlamentari pagati profumatamente, ma perché un politico deve prendere 400.000 euro all'anno? Non ho capito, cioè 23-30.000 euro al mese, che cosa te ne fai di tutti questi soldi? A che cosa ti servono? Quale spese tu affronti per fare il lavoro che stai facendo? Che cosa stai facendo di particolare per prendere tutto questo denaro? Si prende la segretaria, poi c'era poi gli uffici, capito? Poi non so che cosa gli serva la verità, ma comunque quello è il problema. C'hanno spese e quindi devono coprire le spese del partito e le spese di quello. Se poi i testini non c'è, ne glielo prego. Dottore, da che mondo è mondo, ogni persona che ha un'attività commerciale ha la sua segretaria e viene pagata normalmente. Una segretaria non ti prende tutto questo denaro, ma io, allora, un onorevole prende 400.000 euro all'anno, e sono tanti. Che spese affronta questo qua per avere una segretaria? Se non pagano nulla, non pagano né ieri, non pagano i biglietti di andare a vedere il campo di calcio, sono tutti gratis, sono tutti spesati di tutto, mangiano in un ristorante gratis. Che loro non spendono nulla, e sono puliti, grazie ai tamburini, tutti questi soldi che prendono sono puliti, non è che hanno che spese hanno, nulla, perché si devono andare in posto, cioè, queste macchine blu le volevano togliere, non le hanno tolte, che poi c'è stata una ribellione tra di loro e le hanno lasciate lo stesso, e che smettano di prendere tutti questi soldi, se devono diminuire almeno dell'80%, perché è un'esagerazione. Ma non lo fanno, conosco così scemi, una così importante che io che erano eletti, quindi stata quella loro si stava luce per i fatti loro. Sono tutti d'accordo, tutti i partiti sono d'accordo, fregate. Purtroppo è così. E allora ci vuole quell'aereo che ha buttato le gemelle. Allora, ci siamo tutti? Sì, alzano la mano, bene. E arriva l'aereo lì, a monte Citto. Oioi. Bisogna ucciderli tutti quanti, è tutta gentaglia. Quando entrano lì pensano solo a denaro e basta, non pensano ad altro. Sono cazzate quelle cose che dicono, ma non vedi che se ne va a prendere a calci in culo. Devi vedere che pigliano a calci in culo prima o poi, qualche giorno. Che succederà, come escono fuori, a un euro che pigliano a calci in culo. Siamo praticamente quasi in una dittatura. Hai visto la fine che ha fatto Gheddafi? Guarda il popolo, non si credere. Il popolo quando va all'esasperazione, che non ce la fa più, parte. Parte sì, non ti credere non succeda. Tu vedrai, fa poco. Alla fine si fanno le balle, fanno casino, ce ne hanno buttato di fuori. Ma perché aspetto ne mi hanno chiamato. E a faccia. Antone. Ti sgancio, è venuta gente, dai, ce la risentiamo le prossime, buon proseguimento, poi se faccio in tempo stasera o domani ti faccio uno squillo e te lo rendo lì e poi vediamo, eh? Ok? D'accordo, ci sentiamo vicino allora, buon proseguimento con tutto stasera o domani, ciao. Ciao.